Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Siamo qui, Chiara, sei contenta? Ben ritrovati a tutti, certo, sono contentissima. Quando arrivano le 21 non sto più nella pelle. E salutiamo anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Partiamo raccontando qualcosa sull'acqua, perché la settimana prossima ci sarà la giornata mondiale dell'acqua e noi, come sempre, abbiamo scelto un argomento a modo nostro, insomma. E poi apprenderete che cosa significa blockchain, che è una cosa che arriverà, sarà estremamente importante, non immediatamente, nel prossimo futuro. E poi, prima di concludere, due dati sulla missione ExoMars di cui abbiamo già parlato settimana scorsa. Partiamo. Via. Come vi dicevamo poco fa nei titoli, parliamo di acqua, arriva la giornata mondiale dell'acqua, ma ne parliamo per uno dei suoi tanti aspetti, e cioè... E anche dei suoi tanti eventi, perché sono previsti in tutta Italia e in tutto il mondo eventi di ogni tipo. No, l'aspetto che è il consumo dell'acqua in casa, soprattutto per i servizi igienici. Qui sì, ci sono un sacco di idee sbagliate. Come sempre noi decidiamo di scegliere, diciamo, un aspetto magari più piccolo rispetto a quello che può essere, non so, il problema idrico, sì, in senso più ampio. Lo facciamo perché prendiamo spunto ogni tanto da qualche evento che si tiene. In questo caso abbiamo guardato, insomma, in città. Mm-hmm. Il Politecnico organizza una giornata dedicata all'acqua con un workshop, il Politecnico di Milano, con un workshop dedicato soprattutto all'acqua e all'ingegneria, oggi e domani. Quindi noi abbiamo pensato di utilizzare, insomma, come spunto quello che è un intervento all'interno della mattinata del 22 marzo che si terrà appunto al Politecnico di Milano, e in cui si parla proprio di ingegneria, ma ingegneria sanitaria, che è quella forse con cui abbiamo a che fare di più nella nostra vita costantemente. E lo facciamo con Roberto Canziani. Buonasera Canziani. Buonasera a lei e agli ascoltatori. E lei è proprio docente al Politecnico di Milano di ingegneria sanitaria ambientale. Trattamenti delle acque di rifiuto, ecco, in inglese al corso internazionale. Ecco, okay, perfetto. Allora, senta, dicevo poco fa, ci sono delle idee sballate. Si dice perché per tanti usi non si prende, per tanti usi proprio quelli sanitari, non si prende l'acqua che non è potabile. Perché dobbiamo fare la doccia, sprecare in qualche modo, con l'acqua potabile? Possiamo vedere di recuperare. So che qui ci sono parecchie idee sbagliate. Sì, cioè l'idea di usare l'acqua piovana o riutilizzare le acque delle docce o dei bagni come nuova acqua potabile è qualcosa che è costoso da fare. Innanzitutto l'acqua piovana ad uso potabile non la si usa nemmeno nei paesi aridi, cioè l'acqua piovana viene sostanzialmente presa per ridurre i consumi di acqua potabile per gli usi non potabili, diciamo usare per gli sciacquoni del bagno, dei servizi igienici, la possiamo usare per irrigare orti, giardini, vasi, dei fiori sui balconi, e questo permette di utilizzare le fonti potabili solo per quello che è effettivamente più necessario, quindi l'igiene personale, la cucina. E qui cominciamo a specificare, però lei dice questa piovana non diventa, che potrebbe essere potabile, però non finisce nel circuito potabile perché non è conveniente, perché è costoso, no, diceva. Perché in realtà non è immediatamente potabile, l'acqua piovana non è potabile, lava l'atmosfera che nelle nostre zone è inquinata, lava delle superfici che sono sporche. Quindi diciamo per la doccia e per lavarsi i denti non andrebbe bene, però non va bene neanche per lo sciacquone. Per lo sciacquone potrebbe anche andare bene, ma il problema dell'acqua piovana è che dobbiamo immagazzinarla quando c'è e poi quando non c'è che facciamo? Quindi si potrebbe, tanto è vero che io adesso qui sotto mano ho un esempio di harvesting of rainwater che si fa in Messico, nella zona dello Zacatlán, c'è un'iniziativa proprio per questo scopo, cioè per ridurre l'uso dell'acqua pregiata all'uso potabile e usare per gli scopi meno nobili quella piovana. Quindi anche in questa zona che è abbastanza arida sostanzialmente e ha bisogno di questo tipo di apporto per integrare quello che serve alla popolazione, l'uso è sostanzialmente non potabile. Siamo ancora in una situazione in cui l'acqua per uso potabile è una piccola frazione di quella che serve, quindi fonti pregiate, cioè l'acqua sotterranea, l'acqua di sorgente, o anche l'acqua dell'acquedotto previamente che arriva da laghi, da fiumi preventivamente trattata per essere resa potabile, è ancora la soluzione ovviamente più economica e specialmente laddove queste infrastrutture già sono state realizzate, è evidentemente quella più praticabile. Certo. Ecco, l'altra fonte alternativa era il riutilizzo delle acque cosiddette grigie, cioè quelle scaricate dal bagno, dalla doccia, dal lavabo. Cioè, se è possibile in qualche modo recuperare quella dello sciacquone, in qualche modo purificarla e farla tornare nel sistema, magari dello sciacquone qui viene fuori le digestioni umane, perché quelle sono le acque nere. Esatto. Ecco. E anche il lavandino della cucina non va bene, anche quello non va bene. Perché mi ha stroncato anche quello. Trasportare cibi di cibo, insomma, non è decisamente. Ecco, ma aspetti che anziani. Allora, noi facciamo la doccia, usiamo il lavabo anche per lavarci i denti, per sciacquarci le mani e poi facciamo il bagnetto. E queste sono le acque grigie, capito? E queste bene? Sono le grigie. Okay. Sì, sono... Queste qui potrebbero andare giù in cantina del palazzo. Sì, sì, sì. E essere depurate o no? Non depurate a quel punto, se devono andare depurate per forza, perché contengono ovviamente i residui del lavaggio. Ok, certo. Ok, però e lo sporco che è stato lavato via. Però noi le useremo per lo sciacquone. Esattamente, sempre previo trattamento, è stata fatta un'esperienza anche a Bologna, se uno vuole appunto può fare questo tipo di trattamento per in complessi residenziali che possono fare un trattamento almeno un minimo centralizzato, perché non si può che ogni unità abitativa abbia un trattamento di questo genere, altrimenti il costo sarebbe folle. Altissimo. Anche con un trattamento riferito al complesso residenziale, comunque i costi non sono indifferenti. Cioè la parte costosa sarebbe riportare in circolo il trattamento, purificare e riportarla in circolo con delle pompe. Abbiamo bisogno di un circuito idraulico ad hoc, quindi bisogna intervenire su dei nuovi sistemi di adduzione, quindi tubazioni, serbatoi, oltre al trattamento che consuma reagenti, energia elettrica, e manutenzione, e richiede che qualcuno vada a mantenere questi impianti, che richiedono manutenzione molto più difficile di quella di una caldaia, per intendere. Quindi i costi fanno lievitare il prezzo di questa fonte alternativa a livelli che sono proponibili laddove l'acqua è veramente poca e dove il suo costo sia già molto elevato. L'acqua potabile, lei dice. Sembrerebbe proprio che il sistema che abbiamo è quello più efficiente. Cioè Canziani, ci sono dei luoghi dove non è vero che se usiamo l'acqua potabile sprechiamo, perché costa poco. E perché ce n'è tanta. Però poi, per esempio, lei mi citava anche Parigi, Londra, in posti dove invece l'acqua potabile costa molto. E allora... Berlino è quello più caro di tutti, siamo quasi a 5 euro al metro cubo, a Milano siamo a 70 centesimi al metro cubo. A Milano abbiamo un problema di eccesso d'acqua. D'acqua. Però ci sono delle zone in Italia, ad esempio la Sicilia, insomma molte zone del sud che sono invece più siccitose, lì invece il problema bisognerebbe forse calcolarlo. Ah, certamente, queste sì che sono situazioni in cui invece va considerata un possibile utilizzo delle grigie. Va bene, abbiamo chiarito alcuni immaginari sballati, cioè che bisogna risparmiare. No, proprio sballati, bisogna collocarli nel giusto ambito socio-economico. Grazie Canziani. Grazie a voi e grazie agli ascoltatori per la pazienza. Buon lavoro. Dunque, allora, per chi volesse seguire di persona il workshop, si deve recare al Politecnico il 22 marzo, l'abbiamo già detto. E c'è la possibilità di seguirlo anche in streaming, quindi da qualsiasi parte ci si trovi. Daremo qualche indicazione sul nostro blog su come trovarlo, se no trovate le indicazioni sul sito del Politecnico, polimi.it. Chissà, magari non c'è traffico. Sentiamo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Al termine di questa trasmissione saprete che cosa significa blockchain, catena bloccata, ma insomma dopo vi sarà più chiaro. È uno di quei termini che si riferisce, come in tante cose delle tecnologie quotidiane e della innovazione che sta arrivando in modo molto profondo, molto denso in tantissimi settori, ma questa è una di quelle che si conoscono poco, ma potranno segnare una grandissima trasformazione nel futuro. Per parlare di blockchain. Ho qui con me questa sera Tommaso Pellizzari. Buonasera Pellizzari. Buonasera. Che si occupa di Data and Analytics per Unicredit. E poi ho anche Riccardo Prodan. Buonasera Prodan. Buonasera. E lei è proprio a capo di un gruppo di ricerca che lavora su queste tematiche. Incomincio con Pellizzari. Mi dica se va bene, creiamo subito un teatro sperimentale, insomma, tra l'altro voi state lavorando con modelli, un numero piuttosto vasto di aziende con altre appunto, magari anche loro servizi, credo che possa farne anche parte una banca, no? Un insieme di banche forse. Certamente. Esatto, allora quindi una grande comunità, grande ormai oggi vuol dire che non può essere solo nazionale, ma deve guardare a tutto il mondo. L'economia va in quella direzione. Non stiamo a dare numeri, però una grande comunità si mette insieme, fa un accordo che adesso lei ci descriverà e questa comunità incomincia a utilizzare un sistema e sono algoritmi blockchain. Provi a spiegarci che cosa succede e che tipo di vantaggi ne vengono fuori. Per blockchain si intende, possiamo vedere la blockchain per capirla, come una contabilità distribuita. Mm. Che cosa significa? Noi a livello aziendale, ma anche a livello bancario, siamo abituati fondamentalmente a vedere la contabilità come un oggetto, come una rappresentazione delle nostre attività economiche, che è una rappresentazione interna. La famosa partita doppia, certo, è una rappresentazione interna di qual è l'attività economica che ciascuna azienda, ciascuna impresa ha durante un certo periodo di riferimento. Ed è anche molto privata. Ed è anche assolutamente privata. Immaginiamo di cambiare questo paradigma e di avere, invece che una contabilità privata, una contabilità, sto cercando di semplificare, una contabilità pubblica, una contabilità distribuita, una contabilità immutabile, all'interno della quale, quando dicevamo distribuita, una serie di soggetti che reputano questa contabilità come una contabilità vera, quindi la contabilità reale, cominciano a scrivere all'interno di questa contabilità e questa contabilità è a valere per tutti i soggetti che vi partecipano. Che sono d'accordo su condividere. Esattamente, questo implicherebbe che non abbiamo più bisogno di contabilità privata, comunque la contabilità pubblica permetterebbe di scambiare attraverso transazioni, quindi scrittura all'interno di questa contabilità, di scambiare valore da un soggetto all'altro, con tutta la comunità che approva in qualche modo il fatto che la transazione sia stata effettuata e la non repudiabilità e la immutabilità della transazione nel tempo. In caso di contestazioni, la comunità è, come dire, protetta da un sistema che certifica fortemente quello che è stato fatto. Esattamente. Questo oggetto, che concettualmente è un oggetto chiaramente molto elegante e permetterebbe fondamentalmente di eliminare ad esempio tutti i sistemi di riconciliazione o moltissime attività di back office, per esempio anche a livello bancario, perché è diventato possibile solo di recente? Perché solo di recente sono stati scoperti e sono stati applicati degli algoritmi, quindi qui stiamo parlando a partire dal 2009, utilizzando degli algoritmi precedentemente inventati ma mai assemblati in una modalità intelligente come quella della blockchain. Con questi algoritmi è possibile tecnologicamente creare delle modalità, quindi irrigimentare il consenso, la immutabilità e la non repudiabilità attraverso dei sistemi tecnologici. Questo tipo di cosa in passato non era possibile, pertanto non era possibile creare questa contabilità distribuita senza generare, tra virgolette, o senza creare delle difficoltà nel raggiungimento del consenso. Questa cosa qua è stata superata, chiaramente la tecnologia è emergente, siamo all'inizio, ma quali tipi di vantaggi può dare dal punto di vista concettuale? Chiaramente da una serie di vantaggi possiamo immaginare tantissime situazioni, da situazioni di natura pubblica, per esempio, io potrei immaginare di fare un registro del catasto pubblico dove addirittura la compravendita degli immobili viene registrata direttamente su questo registro pubblico e tutti i soggetti che partecipano alla registrazione sono consapevoli e non c'è ripudiabilità. Sì, questo sì. Implicherebbe e possono accedere al dato in maniera pubblica online immediatamente. Questa cosa qua, come può capire, semplificherebbe enormemente certo. Procedure, processi, visibilità del dato, attività correlate che oggi sono abbastanza arcaiche dal punto di vista proprio procedurale. E poi anche dal punto di vista culturale, come dire, spinge a un comportamento virtuoso, insomma, ci diamo delle regole. Le chiedo un'ultima cosa, velocemente, Verizzari, che poi passo a Proda. Nella ipotesi invece dell'insieme di aziende c'è anche una gran velocità nelle transazioni, quindi negli scambi di denaro da una all'altra per business, no? Sono immediati, cioè nel momento in cui si raggiunge il consenso, stiamo parlando, dipende dai protocolli, da secondi a minuti, praticamente il valore viene accreditato istantaneamente, o comunque la transazione, essendo veritiera e avendo raggiunto il consenso, diventa poi la verità e quindi il valore è stato trasmesso e questa trasmissione è praticamente istantanea. Ad oggi ci sono delle limitazioni, cioè la tecnologia oggi disponibile delle limitazioni proprio di velocità, quindi invece di poter fare decine di migliaia di transazioni al secondo, stiamo parlando di poterne fare alcune decine o alcune unità per secondo, e questo è un punto molto importante. Ma ci state lavorando, cioè dobbiamo dire che la blockchain è un modello che arriverà, non fra moltissimo. Assolutamente. Va bene. L'altro topic invece è quello della privacy, dove è fondamentale fare degli step forward, perché essendo pubblico però deve essere garantita la privacy poi degli utilizzatori. Questi sono i due punti di lavoro per il futuro. Va bene, Pelizzari. Arrivo a lei, Proda. Lei fa parte di un gruppo dove ci sono anche altre grosse aziende mondiali come Microsoft, Google e via dicendo. Voi state lavorando su applicazioni diverse da queste, per esempio, delle comunità di aziende. Ne abbiamo parlato prima di fare questa intervista. C'era un esempio interessante che riguardava le automobili, soprattutto quelle che dovrebbero arrivare, che guideranno da sole. Allora, diciamo che uno dei punti di attenzione che abbiamo in questo momento e lo studio di applicazioni per le cosiddette famose anche in questi giorni self-driving car, cioè le macchine che si guidano da sole. Ci sono due aspetti molto importanti. Il primo, diciamo, un aspetto finanziario, il secondo, se vuole, un aspetto di gestione dell'auto. Se partiamo dall'aspetto di gestione dell'auto, è importante quello che è la comunicazione fra queste auto sono dotate di molti più sensori di un'auto tradizionale. Ed è importante la comunicazione fra questi sensori e, diciamo, la casa madre o le assicurazioni che assicureranno questi veicoli. Naturalmente, come diceva prima Tommaso, c'è un problema, in quanto attualmente i protocolli blockchain non sono molto veloci. Noi stiamo lavorando per ridurre sotto il secondo il consenso del blockchain, al fine di permettere di utilizzare questi protocolli per inviare dati in maniera sicura e in maniera immutabile verso, diciamo, altri provider. Inoltre c'è un aspetto finanziario, se lei ci pensa. Questi autoveicoli probabilmente avranno un costo abbastanza elevato, probabilmente ci saranno altre nuove forme di locazioni per questi autoveicoli, stanno nascendo nuovi business plan su questi autoveicoli, e naturalmente si pensa ad esempio a modelli dove le assicurazioni, il prodotto assicurativo sarà completamente diverso, e noi la chiamiamo una real time insurance, dove il premio pagato dal guidatore, che poi il guidatore è una cosa simpatica perché il guidatore non c'è, dunque c'è anche un problema, se vuole, legale, perché un algoritmo che guida, l'assicurazione viene calcolata in real time in base allo scambio di dati che c'è tra la macchina, la casa madre e l'assicurazione, e inoltre fra le varie macchine fra di loro e fra la cartellonistica stradale avanzata, che, diciamo, dà una corretta collocazione dell'auto. Un intreccio impressionante sul territorio, insomma, che diventa sensibilissimo. Lei dice, allora, per governare questo ci vuole qualcosa che abbia tutti i sistemi di sicurezza e riesca a farcelo leggere e gestire. La blockchain viene proprio bene, perché comunque grazie alla sua immutabilità, sia la certezza legale, stiamo lavorando anche sulla privacy, di non alterazione del dato da parte del conducente o di chi per esso, del dato dell'autoveicolo e oppure della casa madre, di chi per esso, di chi vuole fare una sorta di commettere reato nel modificare un dato originale dell'autoveicolo. Certo. E questo è importantissimo perché si ha la sicurezza che quel dato in quel momento che viene letto a posteriori non può più essere modificato. Questo naturalmente va a beneficiare sullo stesso modello di pricing perché si ha la certezza che il dato che si sta leggendo reale non è cambiato. Anche lì vogliamo essere più virtuosi, abbiamo grandi vantaggi e effettivamente accettiamo il valore della comunità. Va bene, grazie Perizzani, grazie Prodam, e vi comunico però che su queste tecnologie blockchain e su tutte le applicazioni per certificare ai livelli di estrema sicurezza, come avete sentito, ci sarà un seminario online lunedì il 21, lunedì prossimo alle ore 12, è un seminario al quale bisogna iscriversi, è gratuito, e per iscriversi dovete andare a www.ioetv.it, però comunque sul nostro blog trovate le indicazioni. The ExoMars probe blasts off on board a Russian Proton rocket from Kazakhstan to the Red Planet. A joint mission between the Russian and European space agencies to look for evidence of past or current life on Mars. Questo era l'annuncio di un collega inglese che appunto ricorda quel momento del lift off di quando il razzo, il Proton, è partito questo 14 marzo alle ore 10.31. Noi l'abbiamo seguito in streaming ora italiana dal centro di Baikonur in Kazakistan. È partito ExoMars. Soltanto 12 ore dopo abbiamo saputo, alle 22.29 di quel giorno abbastanza concitato, abbiamo saputo che la missione era andata a buon fine. I pannelli solari si erano aperti, avevano ricevuto una serie di spinte, le quattro spinte che hanno permesso alla sonda di prendere il via per Marte, e a questo punto auguriamo buon viaggio a ExoMars, che probabilmente risentiremo, proveremo a risentirlo, comunque quando? Ne riparleremo senz'altro fra all'incirca 6 mesi. Dovrebbe arrivare intorno al 19 di ottobre. Dovrebbe entrare in questa sottile atmosfera marziana, in cui appunto arriverà ad una velocità fortissima di 21.000 chilometri, sarà ovviamente rallentato dai razzi e da alcuni paracaduti e arriverà sul suolo marziano. Lì dovrà fare un buon lavoro il nostro Schiaparelli, lo strumento di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa qui a Mebius, per raccogliere appunto informazioni importanti sull'ammartaggio e su quella che è questa atmosfera molto particolare del suolo marziano. Quindi incrociamo le dita e buon viaggio a ExoMars. Buon viaggio. E noi invece auguriamo buona settimana agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Ciao a tutti. Ciao.